Buonasera da parte della biblioteca Claudia Augusta, stasera faccio le veci della direttrice, vi accolgo dicendovi innanzitutto grazie per essere venuti, stasera presentiamo questo volume Con più democrazia verso più autonomia. Abbiamo il piacere di ospitare questi tre signori che vi parleranno appunto di questo volume. Vi ricordo le nostre serate, voi sapete già se siete i nostri utenti, che prossimamente avremo nuovi incontri su Tutta tua la città e poi vari altri libri che presentiamo. Se non li avete ricevuti a casa, sulla sedia troverete quello, eventualmente se non foste iscritti c'è anche il modulo per l'iscrizione. Vi ricordo una cosa a cui teniamo sempre molto, che è il nostro premio, il premio Claudia Augusta, che noi diamo alle tesi di interesse locale in italiano ai ragazzi che appunto le presentano qui da noi. Conosceste qualcuno interessato, per favore fateglielo presente, perché si tratta insomma di un premio per ragazzi magari appena laureati che possono avere necessità. Ecco, vi ringrazio per la presenza e lascio la parola ai nostri relatori. Buonasera. Grazie. Grazie signora direttrice. Veramente molto gradita l'occasione di poter presentare questo volume. Ringrazio voi che del vostro interesse e dei coautori che hanno trovato il tempo di venire. E la presentazione del volume viene proprio nel momento giusto, anche perché nei prossimi giorni il Consiglio Provinciale si accinge a discutere due documenti importanti su questo argomento dell'autonomia. Il primo è una proposta del Consiglio Provinciale per il ritocco dello statuto, che dovrà passare in Parlamento e dovrà poi entrare in una legge costituzionale per mettere in salvo i livelli attuali dell'autonomia. E poi il secondo documento che il Consiglio fra poco discuterà è una legge provinciale per istituire una cosiddetta convenzione per la riforma dello statuto, in tedesco Sitzungsbund. E quindi ci troviamo adesso già in una fase di revisione dello statuto, che sarebbe la prima revisione sistematica, organica, di questo statuto del 72, per cui qualcuno l'ha anche già definito il terzo statuto, 48, 72 e non so, 2015, non si sa. Comunque è un'operazione certamente oggi difficile, perché le regioni speciali si trovano sotto tiro, come sappiamo, e le regioni ordinarie sono già state ridotte nei loro poteri nell'ambito della riforma costituzionale in corso. Inoltre, nessuna delle cinque regioni speciali che abbiamo in Italia finora è riuscita a fare effettivamente un gran salto di qualità nella sua autonomia, né noi dal 70 almeno, né la Valle d'Aosta, nel Friuli Venezia Giulia, e neanche quelli che avrebbero più bisogno, per esempio la Sardegna. E sembra che il discorso si stia sempre più concentrando sulle finanze, non invece anche sull'altra sostanza dell'autonomia, come autogoverno, inteso come autogoverno in vari settori politici della vita. E un'altra novità di questa fase e di questa revisione dello statuto è il metodo, e cioè la politica rappresentativa sembra di aver capito che non basta più quel metodo utilizzato finora, che c'è proprio la necessità e c'è anche la richiesta di un approccio politico diverso, più aperto, soprattutto più partecipativo. E sappiamo tutti che finora l'autonomia è stata, come argomento politico, è stato lasciato in mano, è stato lasciato a un pugno di esperti di soli, diciamo, due o tre partiti al massimo, e non solo i consigli provinciali e i vari partiti dell'opposizione nel Consiglio sono stati estromessi da quella discussione sull'autonomia, ma pensate, perfino la base di quei partiti, parliamo della SVP, del PD, sono insomma non stati pienamente coinvolti. Tant'è vero che anche perfino la Volkspartei, il partito dell'autonomia tout court, ha costituito un suo gruppo di lavoro per le questioni dell'autonomia solo nell'anno scorso, sotto la guida dell'ex onorevole Brucker. Questo gruppo di lavoro ha iniziato l'attività quest'anno. È ovvio che all'ordine del giorno quindi non c'è solo più autonomia, cioè ampliamento dei poteri, riduzione delle possibilità di intervento dello Stato, anche finanze più solide e puntuali, ma proprio anche un cambio di metodo per arrivarci, quindi non solo più autonomia ma anche più democrazia, e affinché questa riforma venga più largamente condivisa fra tutti i gruppi linguistici, ma anche fra i cittadini in generale, bisogna attuare solo i diritti che già abbiamo: diritti di partecipazione, diritti referendari, diritti di iniziativa sia del Consiglio sia dei cittadini singoli o associati, già li abbiamo, li deteniamo. E quindi si tratta anche di pensare come riformare lo statuto per allargare gli spazi democratici che abbiamo in questa società provinciale. Noi, tra parentesi, lo saprete, in provincia di Bolzano non abbiamo nessuna autonomia statutaria. Le regioni ordinarie in Italia hanno questa facoltà, cioè il Consiglio regionale elabora il relativo statuto. In provincia di Bolzano e Trento, non, anche nelle altre regioni speciali, non abbiamo nessun tipo di aggancio come cittadini o come rappresentanti politici locali sul testo dello statuto. Quindi è proprio completamente diverso dalla situazione di un Bundesland tedesco o di una comunità autonoma in Spagna, e quindi questo mi sembra oggi non più proponibile in una democrazia moderna. A questo punto, e arrivo al libro, non si tratta solo di attivarsi come rappresentanti politici, ma direi anche come cittadini, dal basso. E questo l'abbiamo tentato di fare come cooperativa sociale Politis, una cooperativa indipendente che fa ricerca e formazione politica. C'è qui una breve presentazione. E siamo partiti da una circostanza un po' sorprendente, e cioè, forse i coattori potranno confermare questa tesi: pur essendo cresciuti in un ambiente autonomo, una realtà di autonomia, noi conosciamo troppo poco la nostra autonomia, e per contribuire proposte, idee, critiche anche, bisogna naturalmente partire anche da un livello di conoscenza di base. Adesso direi, a parte le caratteristiche generali sull'autonomia che ognuno di noi ha presente, ma parlando dell'autonomia come un complesso di regole con diciamo le sue finalità, le potenzialità, le criticità, questo è troppo poco conosciuto. Non fa parte del patrimonio di educazione civica che in una provincia del nostro tipo dovrebbe essere, almeno insomma nelle scuole dovrebbe essere più presente. Perciò noi abbiamo organizzato un ciclo di conferenze articolato in ben 20 incontri, con un simposio conclusivo, poi altri incontri sul territorio, tesi a creare più interesse fra i cittadini, tesi anche a approfondire almeno qualche aspetto significativo dell'autonomia e della riforma dell'autonomia nel dialogo con esperti, e due dei quali oggi sono qui al tavolo. Abbiamo raccolto 25 esperti di varia estrazione, professori, universitari, politici, attivisti. E poi in aggiunta abbiamo anche realizzato un sondaggio online sui possibili contenuti di una tale riforma. una richiesta non rappresentativa, ma almeno per quanto riguarda i partecipanti tedeschi di lingua tedesca, ha fatto un po' capire che aria tira. Bisognerebbe rifarla in modo più sistematica, generale. Comunque il volume che presentiamo oggi raccoglie questi 25 interventi degli esperti, i risultati dell'inchiesta e poi anche qualche risposta concreta sul metodo partecipativo che andrebbe seguito nel migliore dei casi per riformare lo statuto, e che proprio la convenzione per la riforma dell'autonomia avrà questo compito di riformare, di elaborare una proposta. Per concludere vorrei anche sottolineare, non si tratta di una pubblicazione accademica, tecnica, al contrario, sono tutti interventi brevi, con due o tre eccezioni, molto comprensibili, linguaggio comprensibile, proprio perché trascritti anche dall'intervento orale, e quindi concisi, leggibili. Quindi questo volume non è paragonabile a un volume Gli atti del convegno, ma è una raccolta di interventi che da vari punti di vista focalizzano questo tema centrale della riforma dell'autonomia. Io credo che i lettori, le lettrici politicamente interessati potranno ricavarne sicuramente degli spunti utili per un dibattito imminente. Per noi si tratta di un'operazione di formazione civica, per così dire. Non è invece un'introduzione nell'autonomia, che tra l'altro manca ancora, ci sono i testi ufficiali sull'autonomia, ma poi è proprio strano, no? Approfondendo il discorso si accorge che non ci sono testi introduttivi tipo l'autonomia spiegata ai miei figli o qualche testo interessante sull'autonomia che è recentemente uscito a Trento. Invece da qui mancano ancora. Quindi questo del volume non è un'introduzione giuridica politica nell'autonomia, ma riflessioni utili per riflettere sulla riforma, sempre con un intento di fondo, cioè quello di concordare la concordanza fra i gruppi linguistici con un autogoverno efficace e con più spazi di democrazia e partecipazione. E da qui il titolo, appunto, con più democrazia verso più autonomia. Adesso mi scuso di essermi dilungato, vorrei passare la parola al primo dei due curatori, Alberto Stenico, della Lega Cooperative, consulente e tanti anni direttore della Lega delle Cooperative, e poi naturalmente personaggio che si occupa da decenni della politica provinciale dell'autonomia specificamente, che ha partecipato a uno degli incontri di questo ciclo centrato sulla questione dell'economia e delle riforme possibili, necessarie sul piano dell'economia all'interno dell'autonomia. Bene, grazie Thomas, grazie agli intervenuti. Non intendo qualificarmi come esperto, ma come cittadino di questa provincia che ha partecipato con una certa passione al processo politico, alle discussioni che sono nate in questi decenni attorno all'autonomia, e in quanto tale ho portato un contributo a questo libro. E cioè, noi partiamo con la discussione di oggi con una grande buona notizia, mi pare, e cioè che per la prima volta dal dopoguerra l'autonomia e l'eventuale, diciamo, sviluppo dell'autonomia, il cosiddetto terzo statuto, saranno oggetto di una discussione qui sul territorio provinciale. Perché va detto che fino adesso l'autonomia così preziosa che abbiamo conquistato è stata soprattutto il prodotto di una trattativa tra Stato e, diciamo così, minoranza tedesca, perché questo era poi in realtà lo spirito dell'accordo di Parigi, dove a un certo punto le potenze vincitrici della seconda guerra mondiale hanno stabilito che l'Alto Adige dovesse rimanere assegnato all'Italia, quindi che il confine dovesse rimanere a Brennero, ma che l'Italia in compenso avrebbe dovuto concedere alla popolazione locale tutta l'autonomia e il diritto di mantenere la propria identità, così come è scritto nell'accordo di Parigi. Quindi da quell'accordo del 1946 fino adesso, in sostanza, le grandi decisioni attorno alla nostra autonomia sono state il prodotto di una trattativa Roma-Bolzano, diciamo, no? Perché così è nella natura delle cose. Adesso la buona notizia è che si comincia a fare anche una trattativa Bolzano-Bolzano, o meglio Bolzano-Bozen, diciamo, con le popolazioni locali, con le diverse sensibilità, in modo tale da esprimere qual è la volontà della nostra comunità locale circa lo sviluppo di questa autonomia. Quindi questa è una bella notizia e speriamo che sia poi accompagnata dai fatti, ma pare di sì. E io dico, torniamo alle origini, perché che questa terra sia autonoma non è che se la sono inventata sulla Gazzetta Ufficiale. Noi viviamo in una condizione, diciamo così, geografica, culturale e sociale tale da secoli che ci ha sempre portati qui su questa terra a rivendicare una nostra autonomia. Io penso ad alcuni episodi storici molto brevi, molto schematici, a parte Michael Geismayr, questo leader della rivolta contadina del 1525, che tra le tante sue utopie o aspirazioni non c'era solo quella di una giustizia sociale, partecipazione, eccetera, eccetera, ma anche quella di uno statuto autonomo. Questo Geismayr, nei suoi statuti, aveva idealizzato per la nostra provincia una sorta di cantone svizzero, un cantone svizzero, quindi una realtà che potesse autogovernarsi, per esempio, già allora. Ma poi, venendo avanti, ho visto con piacere in questi giorni, in occasione del 60° anniversario della morte di Alcide De Gasperi, che a proposito di autonomia, Alcide De Gasperi, il 21 maggio del 1919, quindi prima che l'Alto Adige fosse assegnato all'Italia ancora, perché Saint-Germain, l'accordo di Saint-Germain è del settembre o del novembre di quell'anno, quindi eravamo ancora in quella fase, sì, la guerra è vinta ma i confini non erano definiti. Quindi in quel momento, nel 19, De Gasperi dice, con questo suo splendido linguaggio che adesso ci fa un po' rabbrividire, scrive sul giornale Il Nuovo Trentino: e se la nostra voce di ultimi venuti, perché eravamo l'ultima provincia aggregata all'Italia, non potesse apparire immodesta, vorremmo aggiungere che lo stesso interesse autonomistico rende tutte le province sorelle, perché il centralismo livellatore della burocrazia e il capitalismo accentratore sono nemici di tutte. Quindi la volontà di creare su questo territorio un'autonomia è una cosa connaturata, direi, con la natura delle nostre condizioni. E via via, insomma, abbiamo avuto, insomma, diverse occasioni per riaffermarlo questo principio. Purtroppo, naturalmente, il fascismo, le divisioni che ci sono poi seguite anche dopo la guerra, hanno creato questo elemento di trattative sopra le nostre teste, e forse è anche stato indispensabile, perché non c'era la maturità probabilmente per affrontare in altro modo. Quindi adesso però ci siamo, e io nel mio modesto contributo a questo volume ho voluto concentrare la mia attenzione sul fatto che l'autonomia è fatta anche, per non dire soprattutto, di soldi. Cioè non si può immaginare la costruzione di un sistema autonomistico, e quindi anche di un eventuale terzo statuto, quindi un ulteriore sviluppo dell'autonomia, senza chiarire in modo definitivo la questione del finanziamento all'autonomia. Perché diciamo che noi siamo andati avanti in questi 50-60 anni con una situazione relativamente precaria, cioè abbiamo vissuto per decenni sul fatto che noi facevamo parte della spesa pubblica in certo qual modo, cioè noi avevamo come finanziamento all'autonomia una percentuale della spesa pubblica nazionale. Avevamo il famoso coefficiente per il quale dobbiamo ringraziare il padre di Thomas, cioè 1,61, cioè noi avevamo diritto di ricevere in Alto Adige l'1,61% delle spese nazionali in tutti i campi, nei vari settori, compresa la navigazione, credo i porti marittimi, eccetera. Quindi cioè, sostanzialmente, pur essendo noi lo 0,8% della popolazione nazionale, avevamo questo coefficiente che ci è andato molto bene, devo dire, nel senso che il bilancio provinciale dal 72 a oggi è cresciuto in maniera esponenziale. Noi non eravamo una provincia ricca, questa era una provincia dalla quale molti emigravano perché non c'era lavoro, oppure dove le condizioni sociali erano, gli anni 60 erano, non avevamo tutti questi record che abbiamo adesso. Abbiamo avuto quindi questo collegamento alla spesa pubblica nazionale, e poi successivamente c'è stato un rapporto invece percentuale sulle tasse pagate. Adesso l'ultima, diciamo, sistemazione del finanziamento dell'autonomia è collegato a questo fatto che in provincia di Bolzano rimane il 90% delle tasse che si pagano in questa provincia, quindi una condizione sicuramente anche questa piuttosto vantaggiosa. Le altre regioni ce lo invidiano, la Lega Nord, la Lombardia si era azzardata a proporre il 75%, mi ricordo, e tutta Italia aveva criticato. Però quello che è successo poi negli ultimi anni, l'abbiamo visto dal famoso accordo di Milano, ma soprattutto nel momento in cui è scoppiata questa crisi finanziaria e nel momento in cui il debito pubblico è andato relativamente fuori controllo, perché questo è il punto, abbiamo capito che lo Stato tende a verticalizzare il potere, a dire davanti all'emergenza economica noi andiamo giù diretti e non possiamo fare eccezioni. E quindi tagli al bilancio provinciale, tagli alle assegnazioni, l'obbligo della riserva o dell'accantonamento, eccetera. Quindi abbiamo scoperto in questi anni che la questione del finanziamento dell'autonomia è essenziale come le altre questioni di diritto che stanno dentro nello statuto. Quindi quello che a me pare molto importante che vada affrontato nei prossimi mesi o nei prossimi anni nella definizione di questo eventuale nuovo terzo statuto è il consolidamento del sistema di finanziamento della nostra struttura autonomistica, perché se venissero a mancare i quattrini relativi al sostentamento anche di quelle spese extra che noi abbiamo, e che è sempre difficile far capire a Roma, un po' difficile far capire alle altre regioni la questione del bilinguismo, la questione della dispersione della popolazione nel territorio. Qui abbiamo piccoli comuni, dobbiamo fare anche una piccola scuola, abbiamo la necessità di dare a tutti i cittadini certi servizi, quindi la necessità di trovare una soluzione definitiva per il finanziamento dell'autonomia, che io faccio la mia ipotesi e so che è contestata, è discussa. Io penso che la soluzione dovrebbe essere quella dell'autonomia fiscale, cioè sarebbe secondo me giusto collegare l'ente che spende e farlo coincidere con l'ente che incassa le tasse, perché oggi abbiamo questo meccanismo strano: la provincia ha la possibilità di spendere, poi Roma deve assegnare i fondi a Bolzano, poi ci sono le trattative più o meno felici sull'esito degli accreditamenti, poi ci sono l'andamento ciclico a seconda del colore del governo, a seconda della corrispondenza dei colori politici tra Bolzano e Roma. Cioè questa cosa secondo me toglie dignità alla nostra autonomia. Noi dobbiamo avere il diritto di sviluppare la nostra democrazia e quindi di prendere le posizioni politiche che la popolazione intende prendere, e invece l'assegnazione dei fondi non dovrebbe più essere un fatto che da Roma fluisce a Bolzano, ma che sia un po' alla volta un sistema di autoresponsabilità locale, dove nell'ambito della cornice della Costituzione italiana e delle norme europee la provincia autonoma di Bolzano abbia il potere di imporre le tasse in funzione delle spese che vuol fare. Questo sarebbe un grande processo anche di presa di coscienza della popolazione. Cioè io ho un servizio di un certo tipo, oppure posso fare un taglio di certe spese inutili, oppure posso aumentare i servizi in funzione del fatto della nostra capacità fiscale. Naturalmente questo vuol dire che la provincia dovrebbe fare un lavoro che non ha mai fatto, anche se lo statuto lo prevede, cioè di di esercitare la funzione di controllo all'evasione fiscale. È un tema sempre un po' ambiguo, no? Cioè, Roma è cattiva, mette le tasse e va bene così politicamente, insomma, non siamo noi che mettiamo tasse, le tasse le mette Roma, poi Roma deve darci i soldi, non ce li dà, è cattiva. Però insomma, il riportare nella stessa sede la spesa e anche le entrate sarebbe anche un forte aumento di responsabilità di tutta la comunità e della politica locale. Questo diritto ci sarebbe già nello statuto vigente, la facoltà della provincia di contribuire all'accertamento dei tributi. Sì, però mi pare che non attuato. Non mi pare che ci siano tantissimi funzionari pubblici della provincia che facciano questa funzione, questo mestiere. Non mi sembra. E quindi la possibilità di avere qui un'autonomia integrale da quel punto di vista. Del resto abbiamo capito tutti, anche nella discussione sulla questione della Scozia, eccetera, ma non solo, anche quelle che si fanno a Roma. Alla fine questa questione dei soldi è la questione dirimente. In Scozia penso che l'argomento chiave sarà stato, di quelli contrari alla secessione, all'indipendenza, sarà stato quello di dire: ma poi, se ci stacchiamo dall'Inghilterra, quella banca lì cosa fa? Quell'azienda dove va a finire? Avremo i soldi, eccetera. Quindi un po' di paura. Così come al contrario, quando giri per l'Italia, purtroppo questo slogan, ma noi vi manteniamo, con i nostri soldi fate le cose. Quindi questa cosa secondo me deve assolutamente essere affrontata e superata, e a quel punto anche facendo un ragionamento che riguarda il tipo di sviluppo economico che noi vogliamo, perché se è vero che la provincia deve mantenersi sostanzialmente con le sue risorse, bisogna anche decidere come sviluppare l'economia in questa nostra provincia, perché solo dall'attività economica nascono poi le imposte per poter pagare i nostri servizi. E quindi si innesta anche una discussione sul modello di sviluppo economico. Quindi io penso che in questa nuova stagione di coinvolgimento della comunità locale la questione economica dovrebbe avere un ruolo centrale e non essere lasciata agli esperti o ad alcuni politici che, andando a Roma, possono tornare a dire: abbiamo ottenuto 100 milioni perché un comma, un articolo, una cosa che, diciamo così, estranea alla popolazione, anche dal senso di compatibilità che deve avere tutto il sistema. Fino adesso eravamo abituati così, ogni tanto anch'io stesso, che mi interessa un po', sento notizie: ma noi siamo in credito di 3 miliardi. Ma di che cosa? Non lo so. Comunque, vabbè, dico, se arrivano sono benvenuti, ma no, questo non stimola la popolazione a ragionare sulle questioni. Quindi noi abbiamo bisogno assoluto di chiarire questa questione, perché qui i governi cambiano. La solidarietà nazionale non aspettiamocela. Con che argomenti andiamo a chiedere a un cittadino dell'Umbria, del Veneto, della Calabria, che bisogna riservare all'Alto Adige? Beh, ci siamo capiti, insomma, almeno tra persone di madrelingua italiana, ognuno di noi sa, già se ci teniamo quello che abbiamo siamo contenti. Quindi la cosa va affrontata in modo strutturale e definitivo, io ritengo, attraverso una scelta coraggiosa, perché per la politica diventa una scelta molto coraggiosa. È più facile mandare agli elettori una lettera in cui si dice: abbiamo deliberato la concessione di un contributo per questo o per quello, firmato l'assessore, che non dire: la giunta provinciale riunita ha deciso di introdurre un certo tipo di imposta o cose di questo genere. Quindi, però questa sarebbe l'autonomia matura, che non dipende più da Roma, che dipende dalla sua comunità e quindi che deve affrontare anche quelle questioni critiche collegate all'aspetto economico. Quindi anche nel testo qui ho indicato un po' questa questione, naturalmente sapendo che non si scappa da un grande tema, che secondo me sarà il tema dei prossimi anni o decenni, e cioè quello del debito pubblico. Io sono dell'idea che un po' di quei 2170, mi pare da ieri, miliardi di debito pubblico, un pochettino l'avremmo fatto anche noi, no? Non credo che sia solo da Salorno in giù questa cosa, o da Borghetto in giù, no? Quindi una soluzione strutturale per poter dire: bene, contribuiamo per quello che si potrà fare nei prossimi anni e decenni, insomma, a riportare il debito all'interno di una misura accettabile dal mondo finanziario internazionale. Contribuiamo anche noi, ce ne dobbiamo occupare anche noi, però poi, una volta decisa questa cosa, noi dobbiamo essere autonomi per poterci gestire i nostri flussi economici qui locali. Quindi questa questione secondo me sarà molto interessante che possa essere discussa in un ampio livello, perché altrimenti, guardate, io sono convinto, poi concludo, la questione economica per esempio ha determinato anche positivamente in pochi anni per la comunità italiana un forte avvicinamento, una forte, diciamo così, difesa dell'autonomia, no? Io ricordo 10 anni fa ancora l'autonomia, sì, importante, però insomma i tedeschi, Durwalder, la Volkspartei, noi siamo, cioè non, gli italiani non si sentivano protagonisti fino in fondo, perché insomma dal momento in cui si è capito che nelle altre regioni va peggio e che noi grazie allo statuto possiamo garantirci ancora un discreto livello di vita, un po' tutti si sono avvicinati a una concezione autonomistica. Anche ho visto le ultime elezioni provinciali, di partiti contro l'autonomia non esistevano più, anche quelli che un po' di anni prima lo dicevano non esistevano più. Quindi perché si capiva che attraverso l'autonomia si ottiene anche del benessere, però vale anche il principio contrario, no? Che se a un certo punto dovessero diminuire drasticamente i soldi, dove vanno a finire le nostre consapevolezze autonomistiche o anche la convivenza? Perché a quelli sì, a quel gruppo etnico sì e a quell'altro no? Quindi è un attimo perché saltino queste questioni. Quindi mi auguro e mi impegnerò perché all'interno di questa discussione la tematica economica abbia il peso che merita e non sia lasciata alle trattative con Roma o agli esperti pochi che ci portano le soluzioni già fatte. Quindi questo è un po' il mio punto di vista. Grazie. Chiedo una cosa, ultimamente si fanno referendum, diversi referendum. I promotori dei referendum, chiedo a lei che è un esperto, come si ritengono? Vincenti o perdenti? Perché hanno sempre il 50% che è contro di loro. Thomas è un esperto di giurista. Siccome ci girano di referendum, vogliamo sapere come dobbiamo regolarci, no? Sì, però che nel contesto della riforma dell'autonomia non è che si parla immediatamente di referendum, piuttosto dei diritti referendari a livello provinciale che andrebbero migliorati con l'aiuto della popolazione, con iniziative popolari, con più poteri che hanno. Questi referendum crea parla tra le persone un astio incredibile. Lei è andato oggi a Bressanone a sentire come litigavano? Le avrebbe fatto bene? Oppure lei sa che il signor Mazzola se ne andrà all'estero e chiuderà sugli impianti alla Plose e che Maranza chiude pure gli impianti? No, sarà anche vero. No, si informi, insomma, questi sono i nostri referendum. Questi fanno male alla nostra autonomia, tutto quel bene che ha fatto la provincia fino adesso. Sono qua per rovinare tutto, perché 30 anni hanno fatto tanto la provincia. Ma adesso questi referendum sbriciolano tutto. Siamo un po' sconfinati dal nostro argomento. Certo, ma io direi. Chi li paga? Mi scusi, ecco già che siamo. No, proprio non vorrei rispondere perché adesso prima sentiamo il nostro terzo invitato, coattore, e poi apriamo al dialogo e poi parliamo soprattutto di questo argomento. Un referendum al giorno, dobbiamo sapere come dobbiamo comportarci, però, dobbiamo sempre correre come gli idioti. Scusi signora, ma parliamo di questo argomento stasera, quindi la pregherei di torniamoci sopra più tardi, se c'è tempo. Io ho detto tutto e vorrei ancora dare il benvenuto a Lucio Giudice. Ma non è oggi, ho visto che cosa avete fatto. C'è il terzo che deve fare stasera, no? Mi piace, buonasera, arrivederci. No, non ci siamo. Non c'è bisogno di presentare Lucio. Io sono contento che abbia dato un contributo. Forse non ha letto bene il titolo dell'incontro di stasera. In ogni caso, Lucio è sicuramente qualcuno che ci spiega il Sud Tirolo Alto Adige. Io stesso ho imparato molto dalle sue pubblicazioni, soprattutto l'ultima. Voce? Sì, va bene. Io l'arte di stare insieme con Aldo Mazza, e che sarebbe proprio l'autore ideale per spiegare il linguaggio giornalistico, con la dote giornalistica, anche una questione così complessa come l'autonomia, il sistema Südtirol, come qualcuno lo definisce, anche con tutti i retroscena e le problematiche legate alla gestione del potere. In questo volume noi, devo scusarmi con lui, l'abbiamo troppo ristretto. Abbiamo invitato come giornalista anche di parlare delle aspettative del gruppo linguistico italiano nei confronti dell'ampliamento dell'autonomia, e poi Lucio si è anche soffermato sulla questione dei media di diritto pubblico. Alla fine è diventato troppo breve, questo mi dispiace un po', perché proprio noi sappiamo, anche conosciamo insomma, le tue capacità. Ciò nonostante, io sono grato che ci sia questo tuo contributo, e forse potresti ancora sintetizzarci qual è oggi, quali sono le aspettative del gruppo linguistico italiano, come lo vede questa fase di ritocco dello statuto? Io non credo di essere molto indicato per parlare, diciamo, a nome o invece del gruppo linguistico italiano. Io sono nato in una famiglia italiana, ho avuto la mia formazione, io osservo la realtà, cerco anche per mestiere di capire che cosa succede, ma sono abbastanza sicuro del fatto che le mie idee non è che siano poi maggioritarie, ecco, diciamo così, del gruppo italiano. È sotto gli occhi di tutti che c'è stato, ve ne ha parlato Alberto, c'è stato un lungo periodo di diffidenza, se non di avversione, da parte del gruppo italiano all'autonomia che si andava costruendo qui in provincia di Bolzano. Questo ci ha lasciato una situazione nella quale, diciamola così, l'autonomia che abbiamo adesso, il sistema nel quale noi viviamo adesso, è stato sì approvato, votato dal Parlamento italiano, è stato voluto dai governi italiani, però sostanzialmente chi ha spinto, chi ha lavorato per realizzarlo, chi si è rimboccato le maniche, si è dato più da fare, è stata la comunità tedesca e il partito che allora maggiormente la rappresentava, cioè la Südtiroler Volkspartei. Questo crea una situazione un po' asimmetrica, diciamo così, tra i gruppi, perché c'è un gruppo che è quello sudtirolese, che sta pensando, secondo me, con più intensità, con più interesse a quello che sarà, a quello che dovrà essere, a quello che loro vogliono che sia il futuro dell'autonomia, quindi che inizia a guardare oltre, che sta guardando oltre l'autonomia. Il gruppo italiano, sempre ragionando a grandi masse, insomma, però il gruppo italiano invece, secondo me, come l'ho visto io in questi ultimi anni, è arrivato all'autonomia, cioè è arrivato a dire: beh, vabbè, però questo sistema non è poi l'apartheid, come dicevano gli uni, o l'oppressione, o è un sistema nel quale si può vivere con i suoi pregi, i suoi difetti, insomma. Quello che è importante, secondo me, è vederci anche un po' dall'esterno, cioè noi viviamo in un'epoca di enormi cambiamenti. Sono sotto gli occhi di tutti, e non mi riferisco solo al referendum scozzese o ad altri che ci saranno, per dire che quella che noi siamo abituati a considerare la forma principale della storia, cioè lo Stato, gli Stati, chi sono i soggetti della storia? I soggetti della storia sono poi gli Stati, sono loro che firmano i trattati, che concludono le alleanze, gli scambi, eccetera, eccetera. Però gli Stati non è che sono la fine della storia. Cioè, se noi potessimo guardare la carta politica d'Europa o del mondo tra 200 anni, non è molto probabilmente, i confini non saranno quelli che ci sono oggi, ci saranno delle formazioni più grandi, più piccole, non lo so, insomma, nessuno lo può prevedere a una distanza così lunga, però è certo che la cosa varia, è certo che tutto cambia, e questo per parlare dei mutamenti, come dire, degli assetti istituzionali che ci sono. Poi ci sono enormi e sotto gli occhi di tutti i cambiamenti economici, il sistema dello Stato sociale al quale noi siamo abituati, così come noi nella fattispecie in Italia lo abbiamo visto, è un sistema che non regge più. È chiaro che non regge più. Se ci sono milioni di persone in altri paesi che producono quello che produciamo noi a costi minori, è chiaro che poi la produzione va lì, per dire, lo sconvolgimento che sta avvenendo a livello economico. Stiamo assistendo a enormi sconvolgimenti sul piano del tessuto umano del pianeta. Ci sono migrazioni che hanno la dimensione di fenomeni biblici. Ormai sono arrivati in questo fine settimana, solo mi pare di ricordare, 100.000 profughi siriani in Turchia, per dire, in tre giorni, cioè ci sono degli sconvolgimenti sul pianeta dovuti anche a motivi ecologici, la drammaticità della questione delle risorse, l'acqua, ci sono centinaia di milioni di persone che vivono senza acqua, che non hanno l'acqua corrente. Cioè, ci sono fenomeni a questo mondo che lo stanno, diciamo così, abbastanza rivoltando. Ecco, e noi siamo una piccola cosa all'interno di questo rivolgimento. Ora, secondo me, anche per delle ragioni, come dire, di tradizione culturale, che qui sarebbe troppo a lungo ripercorre, poi il discorso si farebbe specialistico, però noi siamo un po' abituati a vedere disegni nella storia, cioè come se ci fosse un demiurgo o ci fosse qualcuno che ne stabilisce l'indirizzo e la spinge lì in quella direzione. Addirittura un filosofo italiano dice che sono cicli nella storia, cioè che la storia si ripete, un'opinione che a me personalmente pare completamente balorda, ma comunque, perché mi sembra che nulla si ripeta, ma comunque tutto questo per dire che dov'è che va la storia? La storia non va da nessun'altra parte che dove le persone la spingono, dove i soggetti che la fanno la spingono. Non c'è nessuno che determina sopra gli altri, ci sono gruppi di interessi, ci sono classi, ci sono partiti, ci sono forze sociali, culturali, che però è un gioco sostanzialmente molto, molto aperto, con molti soggetti, e la storia, forse quella che noi chiamiamo storia, è poi forse un po' la risultante di tutte queste spinte che ci sono. Ecco, una piccola, per quello che possiamo, spinta in questa piccola provincia, in questa fase siamo invitati a darla anche noi, cioè noi gli abitanti di questa terra, noi gli abitanti dell'Alto Adige Sud Tirol. Se non vogliamo che altri decidano per noi, allora dobbiamo cercare di decidere noi. E questo è il lavoro che in parte, cioè diciamo così, le premesse per questo lavoro sono state fatte appunto con questo libro, che raccoglie proposte, idee, considerazioni su che cosa sarebbe utile fare, come vogliamo vivere, in che sistema vogliamo vivere, come lo vogliamo organizzare. Ecco, secondo me è necessario partecipare qui, diciamo, parlando adesso più specificamente, anche perché in parte lì andava la domanda, da parte del gruppo italiano, da parte dei rappresentanti delle associazioni, dei portavoce, degli opinion maker, o come sono, del gruppo italiano, a questo processo, anche per una ragione molto semplice, che c'entra con quello che dicevo prima. Cioè, il sistema nel quale noi viviamo adesso è stato un sistema, diciamo così, costruito da una parte della nostra società, che era allora la parte più radicata, la parte tedesca, la parte più attiva in questo processo. Ed è il nostro sistema, questo lo si vede anche seguendo nelle tracce, come dire, tecnicamente, le tracce istituzionali, è un sistema che è stato concepito e scritto per tutelare una minoranza. Questa è la caratteristica del sistema. A rigore gli italiani c'entrerebbero poco, perché gli italiani in fondo non sono mica una minoranza, gli italiani sono espressione di un popolo di 50, quanti siamo, 6-8 milioni di persone, e è per tutelare una minoranza, le minoranze in lingua tedesca e ladina, che questo sistema è stato costruito. Che questo sistema non vada più, non regga più all'impatto con la realtà, è anche questo abbastanza evidente. Intanto perché sono cambiate le condizioni demografiche, 50 anni fa, 60 anni fa si poteva ancora ragionare di questa terra in termini di tre gruppi, italiano, tedesco, ladino. Oggi abbiamo 150 nazionalità in questa terra. Cosa facciamo? Non so quante migliaia di persone immigrate dal resto d'Europa o da paesi extraeuropei, cosa facciamo? Ci sono, non ci sono, in che misura ci sono, in che misura non ci sono, come cerchiamo di gestire questa situazione? Ecco, se questo nuovo questo terzo statuto, questa nuova autonomia deve essere un sistema che va bene per tutti e non solamente per un gruppo, che è il gruppo della minoranza linguistica, se questo sistema deve essere un sistema che va bene per tutti, allora è abbastanza logico che alla definizione di questo sistema debbano anche tutti contribuire. Poi volevo dire alcune cose relativamente al mio tema specifico, che è quello appunto dell'informazione pubblica. Io lavoro da tanti anni per la sede RAI di Bolzano. Come voi sapete, la sede RAI di Bolzano è una delle più grandi sedi d'Italia, perché consideriamo il numero di ore di trasmissione prodotte sia in TV che in radio, avendo noi programmi locali in lingua tedesca, abbiamo una struttura abbastanza grossa. Noi dopo Roma, Milano, Napoli e Palermo, credo, siamo la sede con più dipendenti. Bene, questa sede produce quotidianamente informazioni e programmi di intrattenimento culturale, programmi dedicati a temi sociali, eccetera, in tre lingue, cioè in lingua italiana, in lingua tedesca e in lingua ladina. Però diciamo così, le proporzioni tra queste lingue sono abbastanza sbilanciate. Voi considerate che per un minuto o per un'ora è lo stesso di trasmissione o informazione prodotta in lingua italiana alla televisione, ce ne sono quattro ore prodotte in lingua tedesca, e alla radio questa proporzione è addirittura ancora più sbilanciata, perché per ogni ora di trasmissione radiofonica in lingua italiana prodotta dalla sede RAI di Bolzano se ne producono più di 10 in lingua tedesca. Ora, io non è che, intanto ci tengo a chiarire una cosa, che io non voglio assolutamente criticare o parlare male dell'azienda per la quale lavoro e alla quale devo anche tanto. Io cerco di vedere le cose e osservo questo: le trasmissioni in lingua tedesca che ci sono dalla fine della guerra, perché la RAI già allora si fece carico di produrre e diffondere trasmissioni in lingua tedesca, hanno contribuito molto, moltissimo alla formazione di una solida, informata opinione pubblica che segue quello che succede. La signora prima citava il referendum di Maranza. Il referendum di Maranza, rispetto al referendum di Bressanone, si è parlato molto più, è un fenomeno più piccolo, poi lì la problematica è più piccola, però lo cito per dire che molto probabilmente pochi di voi conoscono il dettaglio di quella questione. Il referendum di Maranza, la popolazione di lingua tedesca lo conosce di più, perché è stato trattato più spesso, perché le persone che sono state sentite, le cui posizioni sono state riportate nei servizi, hanno avuto più occasioni di parlare, eccetera, eccetera. Quindi dico, se l'informazione pubblica ha un senso, e dico se perché a vedere certa informazione si potrebbe anche dire che meno la si guarda e più si cresce di senso, ma se la informazione pubblica può avere un senso, allora questo senso è quello di permettere alla società di rispecchiarsi cioè alla società, di parlare, di tirar fuori le idee, di tirar fuori le proposte, di spiegare con disponibilità di tempo, di mezzi, eccetera, quali sono le idee in campo. E questa situazione, secondo me, dall'attuale assetto della informazione proposta dal servizio pubblico in lingua italiana, potrebbe essere garantita meglio, perché noi, per parlare solamente del telegiornale, noi siamo una provincia autonoma, il nostro governo provinciale ha molte più competenze di quanto abbia un governo regionale nel resto d'Italia, di quanto abbia la giunta regionale delle Marche. Però il tempo che noi abbiamo a disposizione per parlare di questo e per parlare anche di molto altro è la metà, perché noi dobbiamo di fatto dividere il nostro tempo con Trento, come sa chiunque guardi il telegiornale, e, diciamo così, in parte subendo noi notizie del Trentino più particolare che non ci interessano, e il Trentino lo stesso, perché anche al Trentino certe cose interessano meno di quanto interessa a noi, però siamo stretti in una camicia, siamo stretti in un sistema, in uno schema che ci permette poco di fare effettivamente quello che come giornalisti dovremmo fare, cioè cercare di dare uno specchio delle posizioni che ci sono nella società. E concludo dicendo che non sono mancate le occasioni negli ultimi tempi interne all'azienda ed anche esterne, diciamo, per parlare esternamente all'azienda, per parlare di queste cose, però alla fine è chiaro che, secondo me, insomma, deve essere la politica a stabilire come deve essere organizzato il servizio di informazione pubblica. E non vorrei essere frainteso, cioè non è che io adesso sto dicendo che il politico deve venire e dirti che cosa deve dire, però la cornice nella quale si lavora, così come per la sanità la stabilisce un organismo politico, cioè un governo, così come per i trasporti, le scelte che si fanno perché votiamo, o così come per la scuola, il sistema, quanti anni, cosa si insegna, eccetera, queste sono tutte scelte. Allora io mi augurerei che in questa fase, mi auguro che in questa fase di revisione del sistema istituzionale nel suo insieme si avesse un occhio di riguardo anche per quello che è appunto il settore dell'informazione pubblica, e che si desse alla sede locale della RAI la possibilità di avere una maggiore flessibilità, di poter prendere degli spazi se ci sono, se c'è la necessità di parlarne, di poter fare per esempio degli speciali, di poter iniziare a fare anche qualcosa insieme, diciamo così, in italiano e in tedesco. Cioè io faccio parte di una generazione, di un gruppo di persone, su questa cosa ho sempre avuto dei pallini e so benissimo che è molto difficile, perché giustamente uno, se guarda una trasmissione, la vuole capire, insomma, la vuole sentire nella sua lingua se guarda una trasmissione, però certe volte si potrebbero anche tentare dei, come si dice, dei crossover, no? Così come avviene dei passaggi, così come avviene nella realtà. Io come giornalista frequento per esempio molte conferenze stampa, e mentre le conferenze stampa istituzionali sono organizzate così che tutto il discorso viene fatto prima in una lingua e poi nell'altra, Durnwalder, Kompatscher fanno, Durnwalder faceva così, Kompatscher fa così, perché è un rappresentante istituzionale, l'istituzione ha l'obbligo di parlare in entrambe le lingue e bene fanno a fare questa cosa. Però spesso in altri contesti, per esempio quando si va da associazioni private, anche se importanti, per esempio gli industriali, gli imprenditori, gli stessi sindacati, eccetera, sempre più spesso succede che ognuno parla la propria lingua. Questo è un modo anche per rispecchiare quello che è la società veramente, quello che è il quadro sociale vero, e anche, secondo me, un po' per incentivare le persone a scambiarsi le lingue, le culture, a sentire l'altro nella sua lingua, eccetera. Ecco, io mi fermo qui e sono contento poi eventualmente di rispondere a voi. Tante grazie, Lucio, queste parole. E prima di entrare in dialogo, credo abbiamo ancora un quarto d'ora, qualcosa di, del genere, con Alberto Stenica, Lucio Giudice. Vorrei ricordare che il libro è nelle librerie, in vendita anche qui per 10 euro, e raccoglie proprio questi 25 interventi di, non c'è proprio una proporzionale esatta fra autori di lingua italiana e tedesca, comunque abbiamo cercato di essere equilibrati in vari sensi, sia politicamente, linguisticamente, ma ci sono anche voci dall'esterno, due specialisti della Valle d'Aosta, l'ex presidente della regione della Valle d'Aosta, un esperto del Friuli Venezia Giulia, che 10 anni fa ha vissuto un processo di costituente, di assemblea costituente per riformare lo statuto del Friuli Venezia Giulia, e poi appunto professori fra Palermo, Francesco Palermo, Oscar Pettolini, attivisti di vario tipo, ma anche c'è un certo pluralismo politico da Urzì fino a Pius Leitner. Quindi credo che questo volume offre una panoramica anche interessante di prospettive diverse anche sulla riforma dell'autonomia. Prego, i vostri credo che gli autori sono ancora disponibili per qualche domanda, qualche contributo, commento. Bene, vado a cedere. Vi ringrazio, c'è un'infinita varietà di argomenti da vedere, ma io mi fermo sull'ultimo. Si ascolta il primo e poi si finisce con ricordare meglio l'ultimo. Bene, quindi tocca a lui. Bene. Una delle cose che mi ha informato nella vita è stato il 1957 a Castel Firmiano. Io ero iscritto a un partito di massa e era un partito plurietnico, perché iscriveva sia lavoratore di lingua italiana che di lingua tedesca, e non sono andato a sentirlo, ma l'ho seguito molto da vicino, uscendo dalla preoccupazione che aveva Piazza Walter rispetto al convegno di Castel Firmiano. Una delle cose che mi ha appassionato è stato vedere la partecipazione di quel convegno, e per un partito che puntava sulle masse potete immaginare che sono rimasto impressionato. E poi la cosa che mi ha anche impressionato è la saggezza che è uscita dalle parole, perché quel convegno di massa di persone che sicuramente parlavano solo il tedesco non ha detto los von Rom, ma ha detto los von Trient, mettendo in evidenza una responsabilità che avevano i miei compagni trentini e i miei cittadini trentini, che era quello di non aver attuato il primo statuto d'autonomia, che all'articolo 11 stabiliva di delegare alle province, alle singole province, le singole materie. E allora mi sono reso conto che cosa si trattava di fare. Dopodiché ha seguito una storia molto lunga e siamo arrivati fino alla commissione dei 19. Noi eravamo il partito di massa più numeroso, più rappresentativo, più forte, più attivo qua. Siamo stati esclusi dalla commissione del Senato. Ci siamo chiesti perché tante volte. Siamo rimasti esclusi e si trattava di mettere le regole perché la popolazione di lingua tedesca avesse risposta ai suoi ideali e ai suoi bisogni. Quali erano i bisogni e gli ideali della popolazione di lingua tedesca? Quello di poter rimanere nella propria Heimat e autogovernarsi, e quello di, della sua Vaterland, di poter avere una patria. E noi ci siamo all'interno del partito di opposizione per eccellenza, che era il mio partito di allora, c'è stata una discussione molto approfondita e molto come discutevamo noi, molto seria, perché si trattava di anticipare, di vedere in che direzione si voleva andare. E noi abbiamo votato lo statuto d'autonomia, per fortuna nostra e di tutti, perché questo, abbiamo impedito che venisse sottoposto a referendum, una forma di partecipazione per eccellenza, al referendum anche lo statuto e l'autonomia dell'Alto Adige. Questa è stata la storia che è venuta avanti. Adesso per fortuna siamo andati avanti e abbiamo afferrato che si cresce anche nell'autonomia solo se si dispone la partecipazione, la visione unitaria di tutta la popolazione, ma non solo la popolazione dell'Alto Adige. Ci siamo accorti, io non sono mai stato d'accordo con la questione della regione, anche quando sono stato in Parlamento alla regione davano un sacco di soldi e mi sembravano sprecati, perché preferivo che le risorse venissero affidate alle competenze e quindi alla possibilità di risorse delle singole competenze delle tue province. Però mi sono accorto, e ci siamo accorti tutti, che anche il territorio omogeneo ha la sua funzione per la costruzione dell'autonomia. E noi, io sono nel Trentino, siamo sempre vissuti su un confine che sentiva respiri da una parte e dall'altra. Per questo il territorio omogeneo comprende anche il Trentino. E quindi la visione di nuove regole attraverso il nuovo statuto deve vedere anche le dimensioni che abbiano radici, in cui queste regole abbiano radici, perché noi possiamo, io mi vanto sempre con tutti quelli che mi capitano a tiro, perché ho una mania di dire che l'autonomia che abbiamo costruito non è stata solo la Fospartei, c'è stato anche qualche di un altro che ci ha messo di tutto. Quando abbiamo approvato il primo statuto nel 1971, io ero in consiglio comunale e avevo 9 consiglieri. Le elezioni dopo ne ho avuto 6, ma come mai? Io ho avuto i fascisti che, scusate, il MIS che stava davanti, che era 6, è diventato quasi grande come noi. Travaso di voti. Perché? Perché avevamo scelto, era una scelta difficile da fare, e questa scelta difficile fatta da tanti, anche da tanti partiti, ha consentito di costruire la possibilità, una visione all'interno di questa realtà. Io intanto dico, ho sentito la difficoltà delle comunicazioni. Certo che in un nuovo statuto, una nuova visione, nuove regole, devono comprendere anche tutti gli strumenti. L'istrumento dell'informazione che è essenziale. Non c'è dubbio che bisogna vedere e radicare bene nel territorio, anche se dimensionato maggiormente, tutti gli strumenti. E anche la scuola. Noi sapevamo benissimo che bisognava, per proteggere la popolazione, occorreva differenziare le due lingue, soprattutto per riparare al fatto che non c'era nessun impiegato di lingua tedesca nei nostri uffici, non ce n'era uno, erano stati cacciati fuori tutti, quindi occorreva anche un tempo di riparazione, ma non siamo più alla riparazione, ora siamo alla costruzione, e quindi anche lo strumento dell'istruzione deve essere radicato bene nell'esigenza del territorio. E ancora per quello che riguarda l'uso della lingua, sono d'accordo col Vescovo, che strano, vero? Sono d'accordo col Vescovo che ha suggerito che ognuno parli nella propria lingua e ciascuno sia in grado di capirlo. Questo deve fare lo statuto. Sì. Grazie. Prima indietro al Alex e poi la signora da Pinte. Ah, tu Pinte, la terza. Parla in italiano, è meglio? Mi è piaciuto il contributo adesso anche di Lionello, perché insomma è sempre la storia dalla quale si parte, e bisogna conoscerla, questo è molto, molto importante, anche questa è la nostra autonomia. E io dico, l'ho letto in tedesco perché c'era già, se no, prima, e faccio parte, insomma, ho fatto parte, faccio parte di un gruppo di lavoro che si è occupato un po' di spingere verso questa convenzione, verso una legge, insomma, che adesso deve ancora essere fatta e approvata. Ci sono delle proposte dei partiti di maggioranza, e quindi deve essere anche coordinato con la provincia di Trento, con tante di cose, perché la Costituzione e lo statuto stesso lo prevedono così, che l'iter delle riforme passa in questo modo, e quindi noi adesso insomma c'è proprio una fase di trattazione, diciamo, di contrattazione per fare questa legge. La convenzione probabilmente partirà l'anno prossimo e avrà, almeno secondo gli schemi che ho visto fino adesso, insomma, avrà il compito di ascoltare, soprattutto, di ascoltare e poi mettere insieme quello che sono gli input. Gli input che vengono dalle formazioni sociali, dalle associazioni, ma anche dai singoli cittadini che avranno una possibilità, magari tramite internet, bisogna vedere un po' come, o anche tramite lettere, da mandare all'indirizzo, insomma, di dare input, no? E poi ci sarà questa convenzione fatta parte di politici, un'altra parte di, diciamo, di non politici, che dovrà un po' mettere insieme, selezionare un po' le cose che possono stare insieme, insomma. Dopodiché dovrà essere il Consiglio Provinciale, quello regionale, il Parlamento a approvare il nuovo statuto. Sempre se tutto va bene, perché è tutto da vedere, no? C'è un po' di preoccupazione, mi sta anche il senatore Palermo che dice che dobbiamo fare in fretta perché stiamo perdendo tempo e avremmo dovuto forse fare questa cosa già 10 anni fa e adesso diventa sempre più difficile, no? Dall'altra parte c'è stata anche forse una maturazione della società in questi ultimi anni, come abbiamo sentito anche da voi prima, no? Quindi una consapevolezza, diciamo così, in tutta la società che l'autonomia è un valore, questo è un plus, diciamo, del momento. E quello che è importante, così anche come si intitola il libro, diciamo la partecipazione, la più democrazia, io credo che in questa fase più democrazia significhi soprattutto ascoltare. Io penso che sia importante iniziare a sensibilizzare le persone, la popolazione già adesso su questo argomento dell'ascolto, perché se poi si apriranno finalmente quelle porte, diciamo, della convenzione, non so quanti mesi saranno aperti, ma sicuramente un paio di mesi, bisogna magari già essere pronti e sapere che c'è il momento di dare il proprio contributo, no? Insomma, è importante che più persone lo diano, perché solo così ci saranno le idee migliori che poi verranno appunto elaborate, selezionate e portate avanti, insomma. Quindi è un momento particolare perché non c'è mai stato, insomma, l'autonomia che abbiamo oggi non è stato costruito, diciamo, in questo modo, quindi è uno strumento anche moderno che abbiamo fortemente voluto, l'abbiamo messo nell'accordo di coalizione e la Volkspartei è stata alla fine d'accordo e quindi adesso finalmente si fa, dopo 20 anni o più che se ne parla. Bisogna sfruttare questa occasione, non bisogna sprecarla, bisogna sostenerla, è molto importante che venga sostenuta da tutti noi, quindi dal popolo, dal basso, perché altrimenti non diventerà una cosa positiva, però la chance c'è e bisogna sfruttarla, quindi insomma, questo è molto importante. Molto interessante, Alexander, tante grazie. Forse raccogliamo ancora 2 o 3 voci, contributi, se la signora davanti, prego tutte. Volevo fare un intervento molto più piccolo. Io stasera ho sentito tante novità, vi sono grata, politica, economia, di tutto. A me personalmente interesserebbe un pochettino più il rapporto sociale, il rapporto fra le persone. Ma siamo proprio sicuri che fra italiani e tedeschi si sia tutto... Magari, anch'io lo dico, magari grande. Io sono da sempre bilingue, nata così, cresciuta bilingue da sempre, mi ci trovo bene, ma io dico sempre non bilingue di italiano o tedesco, bilingue possibilmente di psicologia, di mentalità, non mi importa niente se quella è un italiano o un tedesco, ma siamo sicuri che gli italiani e i tedeschi siano in Alto Adige? Sì, ho sentito, i tedeschi sono di più e quindi, ma anche gli italiani avranno qualcosa e quindi, sono sempre... Non perché io voglio fare reclamo a niente, ho appena pubblicato un piccolissimo libretto, La convivenza, il titolo è un po' più complicato, ma insomma, La convivenza a me sta molto a cuore, ho sentito anche L'ore della RAI, eccetera, ma sarebbe molto bene che si riuscisse 5 Minuten höre auf Italienisch, una, ve la immaginate una festa campestre dove si siedono assieme e mangiano speck assieme? Non credo che succeda tante volte, ma anche ancora un po' voi fate, c'è anche qualcosa di questo in questo libro, non so se mi sono fatta capire come io amerei di più questa... ha piuttosto un taglio dentro politico. Dentro me gli extracomunitari, uguale. Nel mio libretto ci sono anche quelli, sì. Prendo la parola. Prego, signora. Sono benvenuti. Allora, io sono nata a Varna e provengo però da una famiglia lombarda che è stata trasferita, diciamo, per ragioni di lavoro a Varna. Varna adesso è diventata una cittadina, ma quando io sono nata, nel 28, era, diciamo, un bellissimo posto dove praticamente mio padre, che è arrivato dalla Lombardia, ha detto subito: ma che meraviglia, c'è ordine e rispetto. Non c'erano reticolati, non c'erano porte, e mio padre, che veniva da, diciamo, vicino Milano, aveva visto una trasformazione in cui si è innamorato proprio di questo rispetto e ordine, e mi ha insegnato questo. Un'altra cosa che ci ha insegnato, perché eravamo nei momenti veramente poveri, dove le persone vivevano dignitosamente e ugualmente, non c'erano poveri, c'erano tutti i dignitosi, il risparmio. E io chiederei proprio che l'autonomia noi l'avremo se portiamo avanti quello che è stato il nostro retroterra di rispetto, di, noi non lo so, abbiamo vissuto veramente in armonia in quell'epoca, proprio in armonia, non si parlava di italiano e tedesco, abbiamo vissuto in armonia al di là di altre cose, ma perché personalmente lo abbiamo voluto questo, cioè abbiamo accettato rispetto a noi. Adesso è molto difficile portare avanti questo discorso, ma dobbiamo tornare con il rispetto, altrimenti si va nell'anarchia. Democrazia sì, ma con rispetto e molto amore per il prossimo, altrimenti si va nell'anarchia. Il referendo, la Svizzera non mi sa che è un'anarchia, diciamo, ma... come noi sappiamo, sì, che acqua, luce, certo, sono appena venuti a metterci le cose dello spreco, ma guardate, andate nelle case di riposo, andate nei luoghi pubblici, c'è la luce accesa tutto il giorno, e nessuno. Quindi vi chiedo, eventualmente, per incominciare, mettete multe sullo spreco e non accettasse e torneremo nella meraviglia degli anni 19 dove ha citato. Mettete questo è il mio suggerimento, lo sottolineerò moltissimo. E poi un'altra cosa, chiedo al giornalista di fare delle belle ricerche e vedere se nel 2015 abbiamo cominciato, invece di dire che il PIL sale e scende, abbiamo nella nostra regione, possiamo dire che c'è uno spreco meno di acqua, di luce, di tante altre cose, pulizia. Nel 2016 ancora di più, e saremo meglio della Svizzera. Scusate. Grazie. Abbiamo una buona convivenza grazie al presidente uscente Dunvalder, che io potrei definirlo il padre della convivenza. Una pacifica convivenza abbiamo qui in Alto Adige tra i tre gruppi etnici, e questo lo dobbiamo al presidente uscente. Il dottore ha precisato che il debito pubblico è stato causato anche dalla provincia, di Bolzano. Speriamo che nel terzo statuto si tiene presente, naturalmente, che il debito pubblico è stato causato, e si faccia carico di una parte del debito pubblico. Non so se mi sono spiegato, io non sono abituato a parlare in pubblico, ma... Va bene. Non è stato causato soltanto da altre regioni. Lucia, vuoi rispondere? Beh, sì, allora, partendo dall'ultima osservazione, sì, io forse non ero sufficientemente chiaro. Io nella mia proposta, anche nel libro, parlo di un'autonomia responsabile, cioè diventare sempre più responsabili, autonomi. Avere la possibilità di decidere, ma essere responsabili rispetto al quadro del paese in cui viviamo e dell'Europa nella quale viviamo. In questo senso, la questione del debito conviene che sia uno degli elementi di discussione nei prossimi mesi, nei prossimi anni, per evitare di subire quello che noi rischiamo di subire nel caso malaugurato che non ci sia un risanamento, un piano di risanamento sufficientemente efficace dell'economia italiana, per cui qualsiasi governo di qualsiasi colore non si trovi poi autorizzato a dire: io devo salvare la barca e quindi, caro Alto Adige sui Tirol, io taglio e non pago più e faccio eccetera. Quindi conviene mettere la questione del debito tra le questioni da concordare, da riscrivere definitivamente, e quindi consolidare la nostra possibilità di camminare con le nostre gambe. Quello che io penso è che la scommessa di farcela da soli, adesso sempre relativamente, è una scommessa che si può vincere. Abbiamo madre natura che ci ha baciati, perché qui tra il territorio, il turismo, abbiamo le Dolomiti, il patrimonio dell'UNESCO, abbiamo l'acqua, abbiamo tutte quelle cose che gli altri ci invidiano, l'energia idroelettrica, produciamo una volta e mezzo quella che consumiamo, possiamo anche venderla in giro, andiamo in centro, non riusciamo più a camminare perché c'è un flusso di turisti tutti i giorni dell'anno che altre città se lo sognano. Quindi voglio dire, ce la possiamo fare. Io penso che sia una questione di dignità di smetterla di dover andare a Roma a chiedere quanto ci dà Roma, perché io la trovo anche come cittadino, anche rispetto ai miei concittadini italiani, io sono italiano, non me la sento di continuare a sostenere, d'accordo, abbiamo subito i torti del fascismo, abbiamo subito eccetera, però nel 2015 andare a spiegare a un operaio di Bergamo che parte la mattina alle 5 e va in cantiere, o a un ragazzo disoccupato di Roma che noi abbiamo bisogno di più, perché, cioè, io sarei molto più, credo che sarebbe molto più dignitoso farcela con i nostri mezzi. E quindi la spending review non dobbiamo aspettare che sia qualcuno da Roma a dircela, non so, spegnere eccetera. Io adesso poi c'è questa discussione, per carità, gli appalti o non gli appalti, però io penso che dobbiamo cercare di avere i migliori servizi al prezzo più conveniente, cercando di risparmiare dovunque lo possiamo fare. Ecco, non perché sì, ogni singolo, pensando sempre che il mondo cambia se ognuno di noi cambia, non perché arriva un decreto, no? Chiaramente. Però ecco, questa cosa di tenere al centro questa questione qui, la convivenza fatta anche di responsabilità, giustamente è stato citato Don Walter, cioè un politico deve avere il coraggio di andare più avanti di quello che è, diciamo, il ritornello medio della società. Ecco, Don Walter probabilmente, quando ha fatto queste aperture anche molto importanti sul mondo italiano, non aveva sempre gli applausi dei suoi Schützen o dei suoi elettori, no? Però l'ha fatti, così come, devo dire, hanno fatto tanti italiani anche. Giustamente il senatore Bertoldi ha ricordato il suo partito, ma io qui penso di poter ricordare Alcide Berloffa, Giorgio Pasquali, persone che a suo tempo sostenevano delle posizioni che non erano le più popolari, perché tirava il vento del nazionalismo, qui siamo in Italia, eccetera, eccetera. Quindi la politica deve poter favorire quella convivenza, che però poi ci dobbiamo costruire giorno per giorno noi, perché è pur vero che la RAI, l'informazione, ma nessuno impedisce col telecomando a un giovane di dire: questa sera vi guardo una trasmissione sul tedesco, no? Voglio dire, se lo fanno gli immigrati, quando arrivano gli albanesi dicono che l'italiano lo sanno perché guardano la televisione, tanto per capirsi, i tunisini pure, no? Quindi potremmo farcela anche noi altoatesini, viceversa, anche nel mondo tedesco un po' più di attenzione a quello che succede nel mondo italiano, insomma, no? Perché capisco che l'Italia purtroppo, insomma, ormai è una serie di stereotipi che in qualche modo si è costruita, si è guadagnata, però insomma un po' più di attenzione a capire cosa succede in giro per l'Italia, insomma. Quindi una convivenza fatta della politica che prenda le sue responsabilità, e quindi che faccia anche il passo più avanti di quello che può essere lo status quo, ma poi un cittadino che si assuma le sue responsabilità. E sulle questioni che diceva Bertoldi ha ragione, noi abbiamo in questa provincia, ogni tanto si ha la voglia di tagliare con la storia, perché dici: ma ancora queste cose, no? Che tornano. però qui se non sappiamo da dove veniamo non riusciamo a capire dove vogliamo andare anche. I gruppi etnici ci sono ancora, le due diverse culture ci sono ancora. Quello che dobbiamo sviluppare è che all'interno della nostra singola cultura ci siano gli elementi di dialogo e di conoscenza di quell'altra. Ma non è che possiamo immaginare che ci sia un giorno il cittadino indifferenziato che sta qui in questa provincia, che non è né italiano né tedesco, che è un po' italiano, un po' ladino, un po' tunisino, eccetera. Penso che sia giusto che ognuno abbia la sua cultura. Siamo qui, ci facciamo il nostro dibattito in lingua italiana e spero che lo continueremo a fare, eccetera, ma se anche con lo scopo di conoscere quello che succede nelle altre culture. Quindi, diciamo, è un processo. Questa questione del terzo statuto non sarà un'ora X magica, per cui a un certo punto diventiamo moderni, convivenza perfetta, ce la caviamo, eccetera, eccetera. È l'avvio di un processo nuovo. Finalmente ci dicono, guardate che dipende da voi. Non è solamente una questione del Presidente della Giunta che va a parlare con il Presidente del Consiglio e concordano nella Commissione dei Sei una norma d'attuazione per... Così è stata la nostra storia. Uno partiva da Roma, il famoso vagone letto allora c'era, il vagone letto Bolzano-Roma, no, Bolzano, adesso c'è l'aereo. Quella storia in parte comincia a essere superabile col fatto che ci si dice, cari concittadini, diciamo tutti assieme cosa vogliamo diventare, perché quello che siamo lo si sa e non è tutto così rose e fiori. Sono d'accordo anch'io con lei che la convivenza un è più un po' di rose ci sono, sì, beh, è più dichiarata, a volte è più dichiarata, no? È una parola Gerani. Convivenza è una parola un po' consumata, no? Perché a forza di dirla perde un po' di, cioè, però io credo che invece quello che vogliamo diventare, e giustamente diceva Lucio Giudice Andrea, attenzione che non siamo qua noi al tavolino a decidere come gira il mondo, perché se il 10% dei bar sono gestiti da cinesi non era che nessuno se lo sarebbe immaginato 10 anni fa, no? E se mia madre sta con la signora della Moldavia, che sta al di là addirittura, stava nell'ex nella Russia, diciamo, quella che era l'Unione Sovietica, cioè tutte cose che 10 anni fa nessuno di noi si immaginava, no? Ma neanche che andassimo a fare le vacanze al mare all'isola di Seychelles con i pensionati, insomma, voglio dire, perché succede di tutto, eh? Quindi dentro in questo quadro dobbiamo partecipare a questo processo positivo che dovrebbe partire. Se permette, volevo riprendere un argomento sollevato dalla signora prima, che sta molto a cuore anche a Lucio Giudice Andrea, quello della convivenza, e giustamente durante il suo intervento nel nostro ciclo di conferenze ha detto una frase che mi ha molto illuminante per me. Lucio ha detto, ma adesso siamo in una situazione strana perché il gruppo linguistico tedesco sta spingendo sull'ampliamento per più autonomia, invece il gruppo di lingua tedesca, italiana è arrivata a insomma, accettare questa autonomia come un dato di fatto positivo, è arrivata all'autonomia. E invece gli altri già con la mente, con la volontà si muovono autonomia integrale o ancora di più. E quindi vorrei, riprendendo l'argomento, poi chiederti, si può immaginare una buona convivenza, una convivenza accettabile con le regole insomma accettabili, anche in un'autonomia futura più ampia, più ricca di competenze, insomma più rafforzata? Come la vedi questo? Ma sì, certo che si può, dipende da noi. La signora chiedeva, siamo poi così sicuri? Anch'io ho dei dubbi, io penso che possiamo andare da una parte o dall'altra. Cioè io penso che se certe condizioni, per esempio, se certe condizioni cambiano... Non è mica escluso che si torni a litigare dividendosi in italiani e tedeschi. Speriamo di no. No, certo, ma noi dobbiamo sempre distinguere, diciamo, tra quello che è e quello che noi vorremmo che fosse, no? Machiavelli invitava a distinguere, diceva, guardate, una cosa è quello che è, cerchiamo di descrivere quello che è, un'altra cosa è quello che noi vorremmo che fosse. Allora, su quello che noi vorremmo che fosse... dobbiamo essere d'accordo e penso che lo siamo. Vogliamo una società più aperta, una società nella quale ci siano più scambi, eccetera, eccetera. c'è una realtà, cioè c'è un quello che è, che in parte ci può favorire questo processo e in parte ce lo può anche sfavorire, cioè in parte può anche insomma agire da fattore contrario. Dipende da noi. L'alto, e torno a quello che diceva lei signora, perché mi pare che a lei stia molto a cuore questa cosa che ha detto, dipende da ognuno di noi. Ecco, diciamo così, penso che possiamo essere d'accordo su questa se la riassumiamo così, no? Ognuno deve fare la sua parte dal basso. Soprattutto. Ecco, e poi deve esserci anche il sistema dall'alto che dà le possibilità, che apre le porte, che questa cosa non la impedisce. Ora, il sistema, tutto sommato, possiamo immaginarlo un sistema che apre le porte, che dia più possibilità per queste cose qui. Poi ognuno di noi deve rimboccarsi le maniche e ognuno di noi deve cercare di lasciare, come dire, questa terra, questo mondo un pochettino migliore di come l'ha trovato. Cioè sono due cose che devono lavorare insieme. Possiamo essere d'accordo così, signora? Sì, molto, perché guarda, perfetto. Si può essere la persona più intelligente a fare delle belle prospettive, ma se noi siamo tutti anarchici, come fa una persona sola anche con le idee migliori? Proprio come fa se siamo tutti? E sì. Poi anche il buon esempio, io l'ho visto nel mio piccolo paese. Sì, sì. Non, nessuno si permetteva di giocare a quella, la pecora nera che veniva guardata. Poi ci sono delle cose, scusi, che possono essere date, no? Io posso dare come sistema sociale, posso dare una certa sicurezza, è quello che abbiamo avuto finora, cioè finora questa esistenza dalla culla alla bara c'è. Uno Stato che ci prende, un sistema che ci prende, ci accompagna, no? Cioè ci sono delle cose che si possono dare se i conti tornano, poi ci sono delle cose che non si possono dare. Per esempio la lingua, non è che io ti posso dico adesso sai l'inglese, o dice adesso sai il tedesco, cioè quella te la devi imparare tu, cioè il sistema ti deve dare possibilità, ti deve dare chance, ti deve dare opportunità, ti deve sostenere in questo percorso, però poi a un certo punto devi anche metterci tu del tuo, perché se no non è che va avanti. E quindi dall'alto e dal basso insieme. Grazie. Allora abbiamo guardato. Vediamo che dobbiamo concludere lentamente, non so, c'è un'ultima domanda, contributo, Tritan. Abbiamo parlato del nuovo fenomeno di nuovi cittadini. Tritan è uno di loro. Sulla base della comunità, io non sono d'accordo con quello che c'è, cioè in una serata come questo, per esempio, venendo da fuori, perché io sono qua da 23 anni, però sono albanese. E vengo qua, se Thomas iniziasse a parlare in tedesco io riesco a comunicare in tedesco, non riesco a capire. Allora, sulla base di questo sta che tutti devono sapere tutte e due le lingue. Io noto adesso, con l'esperienza della mia figlia, che ci ho pensato molto in che scuola metterla, e alla fine ho scelto la scuola italiana per una semplice ragione, perché se lo mettevo nella scuola tedesca, col mio tedesco dopo i primi 6 mesi era lei che mi insegnava a me, io non lo potevo più seguire. Invece col mio italiano lo posso seguire anche se va all'università, e perciò ho fatto questa scelta. Dopo 4 anni, è il quarto anno adesso, è nella quarta elementare, lei in tedesco non sa comunicare, io continuo a seguire perché è ancora in quel stato che io gli posso insegnare. Invece lei a casa riparliamo in albanese, a scuola parla italiano, non ha nessun problema in tutte e due le lingue, e non è né un genio e né una stupida, perciò vuol dire che nella scuola italiana, almeno quella che io conosco, anche perché ho fatto per anni il mediatore culturale, manca qualcosa nell'insegnamento del tedesco. Tema per parecchie serate di discussione, si sa che è così, sì. Sì. Torniamoci sopra. Grazie. Grazie a tutti voi.